America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. Beh, vorrei cominciare con una rivendicazione, perché è stato dai microfoni di America 24 che abbiamo dato ieri una notizia, e cioè che il partner segreto fino a quel momento, che aveva fornito delle informazioni super riservate agli Stati Uniti, alla Casa Bianca, a Donald Trump, era Israele. Ecco, la conferma è giunta poche ore dopo la nostra trasmissione con un articolo del New York Times. Questo per dire che nell'era dei media super competitivi, anche dalla nostra piccola Italia, qualche cosa magari possiamo farlo in concorrenza con i media americani e globali. Ecco, detto questo, e dopo aver esplorato le dinamiche, diciamo, del dialogo del presidente Donald Trump con il ministro degli esteri russi Lavrov, al quale ha rivelato dei segreti di Stato, ieri c'è stato il secondo capitolo. Ecco, devo dire che è un periodo non positivo per la Casa Bianca. Credo che Donald Trump non veda l'ora di poter partire per questo suo viaggio importante, viaggio all'estero, il primo viaggio all'estero della sua amministrazione, per cambiare musica, per cambiare timbro, per mettersi in una luce diversa, per sfruttare una coreografia che è stata organizzata nel minimo dettaglio e che dovrebbe contribuire a rilanciare la sua immagine come leader. Nel frattempo, però, in modo molto prosaico, dobbiamo registrare l'ultima complicazione per la Casa Bianca. Sentiamo. The president said, quote, "I hope you can see your way to letting this go, to letting Flynn go. He is a good guy. I hope you can let this go." He also... Ecco, avete sentito il newscast? Lo scoop è arrivato di nuovo nel tardo pomeriggio di ieri dal New York Times. Donald Trump avrebbe chiesto a Comey, il capo dell'FBI, di sospendere le indagini su Michael Flynn. Michael Flynn, ve lo ricordo, era il capo per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, personaggio molto discusso, molto vicino ai russi, e alla fine ha dovuto abbandonare, e adesso è oggetto di un'inchiesta non soltanto dell'FBI, ma addirittura di un'inchiesta parlamentare per sue collusioni con il Cremlino. Ecco, la frase precisa che avrebbe usato Comey in un memo che ha mandato in giro ai suoi fedelissimi allora, e stiamo parlando di febbraio, è la seguente: "Mi auguro che tu possa lasciar perdere", ha detto Donald Trump al direttore dell'FBI, chiedendo di fatto di lasciar cadere le indagini sul caso Michael Flynn. Donald Trump avrebbe anche detto: "Ma insomma, Flynn è un bravo ragazzo", come ha detto, sì, dice, "sono sicuro che sia un bravo ragazzo, però non posso archiviare una cosa di questo genere, dovremmo andare avanti per fare chiarezza", cosa che dovrebbe interessare anche lei. Ecco, la Casa Bianca ha negato che c'è stata questa dinamica dei fatti e spiega che in effetti Donald Trump ha detto a Comey che Flynn era un bravo ragazzo, ma poi non gli ha chiesto di sospendere le indagini. Su questo il pendolo, devo dire, sembra essere più vicino a Comey, perché aveva preso degli appunti molto precisi subito dopo l'incontro con Donald Trump. Ecco, queste possono sembrare delle fisime, qualcuno può dire: "Ma vogliamo spaccare il cappello in quattro, ma gliel'ha chiesto, gli ha detto un bravo ragazzo, gli ha chiesto di sospendere, non gliel'ha chiesto", ma insomma, alla fine il fatto è che Trump è troppo leggero. Trump deve imparare a fare il presidente degli Stati Uniti. Il presidente degli Stati Uniti non può concedersi delle sbavature, delle cadute di stile, e dunque per Donald Trump questi episodi, che alla fine non necessariamente si traducono in delle conseguenze, diciamo così, giuridico-legali, oppure in un impeachment, come qualcuno suggerisce, su questo vorrei fare un chiarimento: non ci sarà un impeachment per Donald Trump. C'è una maggioranza repubblicana alla Camera e al Senato, bisogna proprio che esploda uno scandalo di proporzioni gigantesche per poter procedere con un impeachment. Per ora, secondo me, non è assolutamente nelle carte, e non dovrebbe essere nelle carte, perché qui è semplicemente una questione di battaglia politica, anche se qualcuno in campo repubblicano comincia ad attaccarlo. Sentiamo John McCain. It's of Watergate size and scale, and a couple of days there's a new aspect of this really unhappy situation. This is not good for America. John McCain si riferisce alle rivelazioni che Donald Trump ha fatto ai russi, e dice il senatore, l'autorevole senatore repubblicano, ricordiamolo, candidato alle presidenziali anni fa, dice: "Le azioni di Trump mandano un segnale preoccupante agli alleati e partner americani nel mondo e potrebbero ostacolare in futuro la condivisione dell'intelligence con noi." Ecco, la Casa Bianca a un certo punto ha ammesso che ci sono state in effetti queste rivelazioni. Sentiamo Trump durante le dichiarazioni congiunte con il presidente turco Erdogan ieri, incontro importante alla Casa Bianca con la Turchia. We had actually a great meeting with the foreign Minister, so we want to get as many to help fight terrorism as possible. Abbiamo avuto un incontro fruttuoso con il ministro degli esteri russo la scorsa settimana. Avremo successo nella guerra contro il terrorismo e per farlo vogliamo coinvolgere sempre più paesi in questa lotta. Coinvolgere più paesi significa che Trump difende le sue azioni di coinvolgimento della Russia, rivelandogli e rendendogli partecipe di informazioni di intelligence talmente riservate che non erano state comunicate neanche agli alleati. Ecco, vorrei dire una cosa. Non ho dubbi che Donald Trump è mosso dalle migliori intenzioni. Cerca di seguire la sua strategia per poter ottenere dei risultati. Qualcuno mi ha scritto su Twitter, ma insomma lasciatelo lavorare. Sì, però fino a un certo punto, perché Donald Trump è il presidente degli Stati Uniti e certe regole vanno rispettate. C'è stato ieri un articolo che mi ha colpito sul New York Times, molto interessante, di David Brooks. E David Brooks è un repubblicano, è uno degli editorialisti repubblicani del New York Times, e di fatto mette in evidenza come Donald Trump sia goffo, come si sia dimostrato un bambino, e identifica tre punti, secondo lui, che sono alla radice dei problemi di Donald Trump, che sono poi, se vogliamo, di natura psicologica. La prima: Donald Trump è come un bambino irrequieto, non riesce a star fermo, e questo lo si vede poi nel fatto che improvvisamente deve dire una cosa e comunque dà delle risposte molto contorte alle domande che gli vengono fatte. Il secondo punto è che è travolto Donald Trump dal desiderio di essere adorato, di farsi approvare, di essere adulato in qualunque modo possibile. Ecco, nel momento in cui questo non succede, naturalmente, ecco che reagisce con rabbia. Terzo punto: non ha imparato, nonostante sia un adulto, quindi gli adulti a un certo punto imparano ad avere delle relazioni interpersonali, dei rapporti interpersonali maturi. Per esempio, possono esserci delle espressioni di finta modestia, possono esserci dei modi di comunicare per ingraziare il prossimo. Ecco, questo meccanismo di comportamenti sociali non appartiene a Donald Trump. In fondo è un ingenuo, è un uomo che così dice la prima cosa che gli capita in testa. Questo piace molto agli americani, è piaciuto alla sua base elettorale, ma una cosa essere spontanei, essere sinceri, come è stato in effetti durante la campagna elettorale, è una cosa muoversi nei meandri densi di trappole, di potenziali tradimenti, sia all'interno che all'esterno dell'amministrazione, guidando una potenza come gli Stati Uniti d'America. Torniamo dunque al viaggio all'estero di Donald Trump, perché sarà quella la sua possibilità di riscatto. In fondo, all'estero queste cose interessano molto poco. Donald Trump arriverà in Arabia Saudita e Medio Oriente da presidente degli Stati Uniti, e questo basterà ai suoi interlocutori che lo aspettano per poter condividere con lui idee, soluzioni, ambizioni e naturalmente speranze. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive momenti di tensione ma resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, vorrei dedicarla all'inesperienza di Donald Trump, perché di questo si tratta, e al fatto che ha dimostrato in passato su altre cose, pensiamo a quanto ha cambiato la sua politica, di essere in grado di imparare. Degli Javalinas, Inexperienced. If the church won't accept you and your parents don't want you and the cops won't arrest you and your friends all look through you, it's not your fault, your experience. Da New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.